Allora, 11 e 21, abbiamo ancora un intervento di un compagno che ci vuol raccontare cosa sta avvenendo anche dal punto di vista dell'ambiente, della degradazione del tale, appunto, nella Sardegna in generale, ma soprattutto nella zona del Campidano della Sardegna. E gli diamo così la voce. Pronto, Gavino? Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Salvatore. Io volevo parlare di questo, una conversazione che ho avuto con una compagna che mi manda alcuni dati sulla Sardegna del Campidano. La Sardegna, che è l'ultima colonia interna di questo Stato capitale imperialista straccione, e aggiungiamo anche criminale, che non ci manca, ecco. È una situazione gravissima di intere popolazioni campidanesi. Questa compagna mi scrive: i dati sono allarmanti, da noi 5.000 imprese agricole stanno chiudendo, molte di loro sono già state pignorate e sfrattate, in calo certo, hanno già raso il suolo, la notte danno fuoco alle loro aziende perché chiuderle costa troppo, così come il fallimento costa, e chi non ha più niente fa un gran falò delle attrezzature ormai obsolete, perché si sa, il mercato è Dio. Paesi fantasma, vedesti la zona di Decimo Puzzo, falciata dalla legge 4488, che è una legge sull'agricoltura devastante, eccetera, uno scenario da day after, le serre di migliaia di euro in rovina, arrugginite, vetri rotti, un luogo decadente, sembra ci sia stata la guerra, centinaia di serre orticole abbandonate e gli agricoltori invecchiati nella lotta, ma senza risultato, ora rassegnati. Tutta la pianura del Campidano depressa e senza lavoro, le campagne abbandonate incolte, tutto tace e nelle case tutti rinchiusi, pieni di psicofarmaci, perché all'igiene mentale hanno detto che è colpa loro se sono depressi. C'è uno sceicco, questi giorni è venuto a comperare la nostra terra, so che ha fatto anche grandi affari, altre terre vendute dopo che sono state impoverite alle multinazionali dell'energia fotovoltaica, un altro demonio sulle proprietà. Parlavo della zona che si chiama Medio Campidano. Se hai la cartina della Sardegna ti puoi orientare meglio. Parlo di paesi come Decimomannu, Villasor, Serramanna, Samassi, Nuramisis, San Luri, San Gavino, Gustini e altri. Il ricorrere alle cure psichiatriche dell'Istituto di Igiene Mentale di San Luri è prassi. I medici di base, al minimo accenno di un disagio dovuto a situazione sociale complessa, questa è la diagnosi, orientano e convogliano chiunque a visite psicologiche e di conseguenza cure con psicofarmaci e sedute. Le categorie sono varie, ma soprattutto le donne e tantissimi giovani. Ma di questo, come vuoi che ne parlino? Lo sai che la psichiatria è attuata per il controllo della popolazione e viene usata proprio per creare annichilimento. Io credo che la sperimentazione della somministrazione del litio per i casi da loro definiti bipolari l'abbiano fatta anche in questa zona. Anni fa lo somministravano a tantissime persone, salvo poi passare ad altri farmaci dopo aver rovinato menti. Ecco, questa è quanto mi scrive questa compagna in proposito di questa situazione campidanese. Cioè, senti, per a beneficio di chi non conosce bene la Sardegna, puoi delimitare la zona del Campidano per i grossi... La zona del Campidano era una delle più fertili zone. Sì, questa lo sappiamo, infatti. A sud ovest della Sardegna, esatto. Sopra a nord di Cagliari, no, e a sud di Oristano. Esatto. Era una zona agricola ricchissima fin dal tempo dei nuraghi, infatti il nuraghe di San Luri è lì, è proprio in quella zona, certo. E quindi si può capire anche quale fosse l'importanza di questa zona fin dall'antichità. Uh-huh. Adesso è totalmente devastata, la stessa zona è stata occupata militarmente, di recente sono stati venduti dei territori per mettere basi antiaeree israeliane, uh-huh. Quindi vendite proprio al peggiore imperialismo, cioè una cosa terribile. Bisogna dire che però da molti anni, soprattutto nella zona di Kira, nasce bestiame malformato, certo. E ci sono una quantità enorme di tumori anche infantili, perché è stato usato uranio più o meno impoverito, più o meno arricchito, sono state fatte esercitazioni con armi letali, mm-hmm. che hanno finito per colpire la popolazione, la fauna e anche addirittura la flora, perché ci sono deformazioni anche di piante che o non producono o danno prodotti deformati e immangiabili. Certo. Questa è un po' la situazione di quello che è oggi la Sardegna, soprattutto a sud. Poi appunto in risposta a questo peggioramento delle condizioni, a questa devastazione, invece di affrontare il problema alla radice, somministrano psicofarmaci al malessere delle persone, così devastano doppiamente, oltre i corpi, anche le menti. Anche le menti, il fatto gravissimo è proprio certo, questo, quello di fare trattamenti sanitari obbligatori. È pazzesco, siamo alla follia pura di questi maledetti governi. Sì, sono azioni naziste, sì, queste, sì, certo, né meno, non c'è dubbio. Che vengono applicate anche in Italia, ecco, questo è quello che sta succedendo in Sardegna. Ci sono risposte della popolazione per quanto è possibile, qualche manifestazione, qualche cosa? Ma c'è anche gente che sta iniziando un tentativo di organizzazione, uh-huh. e qualche manifestazione di opposizione esiste. Sono un pochino indefinite per ora, sono abbastanza flebili, però almeno c'è qualcuno che incomincia a chiedersi se la Sardegna deve essere ridotta a questa maniera. Il popolo sardo deve subire questa situazione. Ci sono anche dei gravi fatti, per esempio, che sembrano minimi. Era stato approvato che la lingua sarda fosse lingua ufficiale della Sardegna e adesso invece c'è stato dalla Corte Costituzionale la proibizione di applicare questa legge, perché non viene riconosciuta come lingua. Noi sappiamo che in Sardegna si è sempre parlato il sardo, è una lingua diffusissima su tutto il territorio e per comunicare con il continente sì, naturalmente tutti i sardi parlano discretamente l'italiano, ma all'interno si voleva usare quella che si era la lingua propria della Sardegna e questo non è reso possibile, è proprio un comportamento di colonizzazione del territorio sardo. Di totale colonizzazione anche culturale, certo. Perché il discorso della lingua sarda non finisce lì, finisce anche sul fatto che non si vogliono mantenere le tradizioni e così via. Parliamo di un paese prevalentemente agropastorale, se non si conservano la cultura e la tradizione, il paese agropastorale diventa un paese devastato, perché si perdono anche quella che è la tradizione di coltivazione, di pastorizia, eccetera, che veniva trasmesso oralmente da padre in figlio, non ci sono scuole, non c'è niente che la possano trasmettere, in grado di trasmettere un tipo di vita e di cultura per una zona di questo tipo. Speriamo che ci siano mobilitazioni e che ci sia un buon collegamento a tutte le situazioni territoriali. Diciamo, questo problema della devastazione del territorio oggi è diffusissimo, perché i territori vengono messi a profitto, perché il capitale appunto vuole tirare fuori profitti dall'aggressione ai territori, dalla devastazione dei territori, e quindi la risposta delle popolazioni in qualche modo avviene in tutti i modi, dalla discarica all'inceneritore, alla TAV, alle centrali nucleari, a questa vicenda qui e così, e alle basi militari poi che in Sardegna sono diffusissime, e il problema è quello della come dire, dell'organizzazione delle popolazioni per lottare, per impedire, e anche del coordinamento di tutte queste lotte, perché possano esprimere più forza, più capacità di incisività. Devastazione e saccheggio. L'abbiamo detto, è la loro pratica da sempre, però incrementata in quest'ultimo tempo, per questo come rimozione l'hanno fatta diventare un reato, come chiamano loro, no? Qualcuno che spacca un bancomat, ecco il devastatore, facendo finta, così nascondendo la testa sotto la sabbia, pensando di pulirsi l'anima dal loro essere i devastatori, i saccheggiatori. Per antonomasia. In questi giorni c'è stato un episodio interessantissimo a Olbia, dove i pastori si sono radunati e hanno bloccato tutte le navi che scaricavano carne, latte. Figuriamoci in Sardegna scaricare latte quando il latte non lo compra più dei pastori sardi, non lo compra più nessuno. E anche la carne, perché la Sardegna, se non altro, ancora potrebbe essere autosufficiente di latte e di carne. Arrivano le navi stracariche di carne e di latte. Allora i pastori sardi hanno bloccato, sono riusciti a controllare e tenere ferme queste navi, probabilmente il carico è stato buttato via, no? Questa è stata un'azione, naturalmente la polizia è intervenuta. Questa volta i pastori hanno avuto la forza di andare avanti e continuare l'azione che hanno fatto, però si aspettano una forte reazione per la prossima volta, perché queste navi continuano ad arrivare, insomma non si fa assolutamente niente per bloccarle e per tenerle lontane, si va a comprare le cose che abbiamo in casa dagli altri pagandogli i prezzi che ci vengono imposti. E poi anche recentemente la Granarolo ha comprato l'ultima ditta che produceva formaggio sardo. Ha comprato questa ditta, produce il formaggio sardo con latte comprato all'estero e lo marchia come se fosse formaggio sardo. Questo è un'azione criminale proprio per distruggere quella che è l'economia della Sardegna. Poi si dice la crisi è questa. È una crisi inventata da loro per razziare tutto quello che è possibile razziare e ridurre la gente alla fame e avere manodopera a basso costo. Va bene, Gavino, ti ringraziamo per questa apertura di questo specchio, di questa occhio sulla Sardegna. In genere se ne sa sempre poco, torneremo a parlarne, cerca di trovare altre informazioni e ne parleremo ancora. Senz'altro, Salvatore, saluti a tutti, libertà a tutte. Grazie. E a tutti. E buona continuazione. Ciao, grazie. Ciao.